mattone al bombolino, scendi dal letto. Attenzione, binario 10K. Ma niente crede a stazioni. Cos'è, sta brutto. Attenzione, Antonio, si ascolti qua. Vabbè. Ciao, ciao. Dati ascolto, dati ascolto. Qui dalla provincia di Catanzaro, si ascolti, Antonio, qua. Ti sto mandando una foto che sto facendo qui, rifinendo quella scritta là che ho stampato. Ah, vedi, grappa, andiamo. Capo di otto cannuta. Mamma mia, la scena. No! Tocca. Ti piace quel colore, Antu? Ho visto, aspetta. Vabbè, considera... Aspetta, abbasso, ecco. Considera che hai... devo dargliene due mani, Capito? Però sotto un'altra scritta che c'è sotto la faccio... Boh, non lo so ancora se farla nera o di un altro colore, boh, non lo so. Vabbè, adesso continuo, dai, già sono qua. Chiama qualcuno, eh. Aia. Aia. Parla. Prima ti rompi il microfono, ti metti va a voce, poi non parli. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti, chi è? Chiappa, chiappa, vediamo un po', ola, sì, mic originale, questo non è dinamico, cioè non è a capsula, vai in ramada, questo è dinamico, mi 500 ohm, ecco. Non è capsula ceramica. No, volevo dire piezoelettrica, ho capito, come i 7009, 9009 che hanno la capsula a condensatore, ecco, quella lì volevo dire, condensatore, questo è volgare capsula. Ditemi una cosa piuttosto, ascoltate, tenete bene l'occhio, sentite la differenza da questo passaggio 1, 2, 3 a questo passaggio 1, 2, 3, ditemi se cambia qualcosa. No, per me no. Ok, no, perché ho provato a scendere l'eco, ma lasciandolo a zero, perché certe volte sembra che che entri in funzione come un secondo modulatore quando attivi l'eco. Però se mi dico non cambia lo spengo, guarda, ola, spento. E non cambia nulla, va, che uguale, ci ho proprio messo l'orecchio. Ok, riprenderti, io vado a bere che sto asciuttando. Vai Luca. Oggi in quel messaggio non si capisce niente, sinceramente. Boh, o hai sbagliato, magari premuto così. Ah Luca, ho visto che il tizio del video che stava vantando che era l'unico in Italia ad averlo. Cioè è raro quello lì, quello là, è raro, è vero, non ce l'ha nessuno. Ben pochi ne hanno venduti praticamente. Sì, l'ha messo online perché gli ha fatto la modifica del coso, l'Echo Colt, e l'ha messo, l'ha già venduto pure, ha venduto pure 300 euro. Luca, è partito da solo, invece è toccato il telefono. E infatti non riusciva a capire, ha detto boh. Senti ora, Marco che sta provando. Sente Marco sul 19 che stava provando, poi io stavo girando sul 20, poi si è detto gente, mi sono fermato, era Marco che stava provando il microfono. Oh Marcolin, cosa mi sono perso? Hai visto già quel furbacchione, un tipo ha messo un 140 sia su Facebook che su Subito, e l'ha messo a 2,30, però scrive che non ne capisce e non sa se funziona, cioè, ma ti rendi conto? Lo vende a 2,30, ma chi è che glielo compra? A 230 una radio poi spenta tra l'altro, però scrive che lui non se ne intende, così che non sa se funziona. Sì, questo toglie il problema, capito? Se non funziona, dice, ma io te l'ho scritto che lo sapevo se funzionava, che se 230 è caro, ho dato dire sulla garanzia, è caro 230. Sì che me l'avevo giù a 100 euro, l'avrei pure magari preso e poi fatto controllare, ma cazzo, quando te lo mettono a caso 230 non sanno manco se si accende. Pensa che ha messo anche un 9,40, il 9,40 a 220 con la stessa scritta che non sa se funziona, non se ne intende, a 220. Ha detto solo uno che lo può ritirare di persona, viene lì, lo attacca a un'alimentazione, che poi il 9,40 mi sa che era anche a 220, che neanche la foto acceso di quello ha messo, almeno metti, gli hanno scritto sui commenti, ma almeno attacca la spina e vedi se almeno accende, cioè della serie, magari vuoi in bacca. E sono tutti con potenza negativo queste cose, io non mi fido. È capace che magari va bene che di qualche parente che è morto o roba del genere, però vai in fila, di cosa ne sai? Ma uno, anche se non se ne intende, guarda i prezzi in giro, no? Caspita, dice, questo lo vanno 600 euro, aspetta che attacco la spina, se magari accende, e poi scrivo che però non sono un intenditore, non ho antenne, è così che non posso provarlo, ma almeno accendilo, no? Se vedi il suo valore di mercato, almeno accendilo, no? Perché lo devi dare a quel prezzo lì? Vuol dire che c'è sotto qualcosa. Ma magari se lo vede Fabrizio lo prende e lo controlla e lo mette a posto. Magari se lo vede lui se gli conviene, magari lo prende pure, ma se non sa che cosa c'è è un casino. No, e poi non sai neanche se è una fregatura, capito? Il discorso è anche quello. non sai se te ne manda, se rimanda i dinari non te ne dati, perché molti fanno così e mettono questi prezzi no, e poi non ne mandano neanche. Infatti io da privati non conviene mai di salute, conviene prenderlo dai negozi come abbiamo fatto sempre noi e via, perché privato tipo invece il negozio non si può sfruttare così, la roba te la dà come si deve, che funziona e tutto. Ah, è perché quello là non l'ho preso, il Force One, non l'ho preso da un privato, anche l'altro da privato. No, tutto a posto, tutto sì, se cosa lo prendi sì anche dal rivenditore, certo. Però guarda, ti mandano il video, ti chiamano, mettono il numero di telefono, eccetera, eccetera, capito? No, quello là mi aveva mandato un sacco di video anche del Force One. E adesso c'è anche un bellissimo Saturn Echo con l'illuminazione blu, mi ha mandato subito il video se mi interessava e del funzionamento eccetera eccetera. E cosa me ne posso dire? Che cosa me ne fai? Saturn Echo è una bellissima radio, non è in una valigia, grazie, c'è benissimo. Io adesso sto parlando con Saturn Echo per dire. Sì, per me è sempre, ripeto, è sempre un baracchino messo dentro una scatola grande, però. Aspetta che mi stanno chiamando. E dite quello che volete. Certo è diverso dal baracchino, perché anche l'occhio vuole la sua parte, questa passazione non è come un baracchinetto di macchina, l'altro non è la stessa cosa. E poi può esserci dentro quello che vuole, però esce bene. E io... La mia chicca è questa qua, a me mi piace troppo. Via. E comunque la scheda è buona, il bello del Saturn è che ha la scheda buona, se è quello con la IPT 3006, perché i vecchi avevano la scheda tipo il multimode, no, quelle Cybernet, che erano più, pigliavi anche più colpi, invece con l'IPT 3006 è una cosa buona e giusta, capito? Marco, la radio è bella, io non posso dire nulla, a me piace, perché io me la vedo davanti, mi piace proprio come radio, mi piace tutte le manopole, le cose che c'ha, è diverso da un baracchino, puoi prenderti anche il Galaxy, quello da macchina, ma è tutto diverso, l'interno sarà uguale come dice lui, però è diverso come estetica, è tutto la sagosa. Io a me non mi piace il strumento a cabaterra, primo, poi è un barrasone. Se mi dici che ti piace l'estetica, ok, ci può stare, ma di certo non puoi dire che siccome è così grande è superiore anche ad altri baracchini, che ci sono baracchini che non prendono colpi, quello prende colpi, perché li prende, ha voglia se li prende. Però è l'estetica che ti piace, ma il funzionamento, ci sono baracchini che li fanno 10 a 0 a quello. No, però Luca, allora con l'IPT 3006 i colpi, vabbè, se c'è una persona a 50 metri li prendi relativamente, ma se avevi le Cybernet, quelle dei multimode, multimode 3 era un incubo, e se quello a 5 bande, perché invece con l'IPT hai 6 bande, quelle a 5 bande, quelli vecchi erano una maledizione, se sentivi tutti su un canale, capito? Guarda, io ho mandato un video, non so se a te anche, o a Gianni o Antonio, col Force One, quando sono entrati questi vicino a me, io mi sono spostato sul canale 22 in diretta, ok, facendo il video, non si sentiva niente, né abbattimento, splatter, niente, dal 22 al 23 non si sentiva niente col Force One. Ma con questo si sente niente, io non sento splatter con Galaxy, cattiva di tu ripiglia splatter. Proprio con Galaxy non intendo, li posso sentire con l'altro apparecchio, quello col Cobra, quando entrano da vicino, però e sono nel canale vicino, allora lì sento sbiglio, ma non più di tanto, però col Galaxy non senti nulla, e poi va lo squelch, basta lo squelch e non intendo più nulla, l'RPG, c'è il Mike Gate, c'è tutto qua, è completo, c'ha il coso, il frequenzimetro, cosa che non c'ha quello che hai preso in tucca, se l'hai dato uno con frequenzimetro per pigliarne uno che è inferiore. Oh, Luca, aspetta, c'è da dire però che dal 22 al 23 ci sono ben 30 kHz di differenza, cioè 6 sul 22 è 2,25 e il 23 è 2,55. No, non prende va colpi, Marco, sto dicendo, colpi non ne prende, non ne prendeva quello lì. Beh, se io questi qua che ho vicino, Gianni non c'ha nessuno vicino, chi c'ha Gianni vicino come ce li ho io? Io c'ho Antonio, c'ho gli altri due, e non ne prendeva colpi, capito? Gianni non c'è nessuno, chi c'ha vicino Gianni? Come c'ho io? Nessuno. E perché quelli che hai tu non ce li ho anche io vicino, si vedono le antenne, Antonio vedo un'antenna, Gian Maria vedo un'antenna, magari un po' più lontano tra le squadre, però esce un bel forte anche tra le squadre. Quindi ce li ho vicino, è come se ce li ho in linea d'aria, sono vicino anche a me. Ma non puoi dire che Antonio è più vicino a te che a me, no? Cosa stai dicendo già? Portalo qua, facciamo la scommessa, tu lo porti qua quel baracchino, quel Saturneco, io l'ho avuto il Saturneco e tu lo sai, ne ho avuto due, e ti faccio vedere nei canali a fianco anche due, tre, tutti quelli che volete, i colpi che prende. Io, vabbè, non sento nessun disturbo, e non prendo manco QRM qua, oltretutto, QRM è pochissimo, uno, due, massimo proprio due, non ne ho QRM qua. Dipende sempre anche dove ti trovi, capito? Anche quello dipende. Qua non mi dà nessun disturbo, quindi per me non esiste il problema. Quando ce li hai così distanti, no, ma caspita, io ce li ho vicino. Con il 48 sì che lo sento l'abbattimento, e poi andando più a avvicinarsi senti proprio lo sblaster. Ma questi sono sempre stati così, si sanno. Mentre con questo che sto usando adesso manco se ne sposto di un canale o niente. Oh, però, vabbè, una cosa è lo splatter sul canale adiacente, uno se esce forte di radio senti quel TTC solito, no? Però i multimodi erano allucinanti, e immagino anche molti altri dell'epoca, no? Cioè vuol dire che tu andavi, che ne so, 39 canali distante, no? Da quello vicino, ti tirava giù il segnale che stavi ricevendo, cioè se tu parlavi con uno in città, proprio ti scendeva il segnale molto e sentivi la voce del tuo vicino, quello era terrificante, quelli là erano terrificanti. Io l'esperienza l'ho fatta con l'ultimode 3 ed era un incubo all'epoca che c'era molta gente del genere, del tipo che non riuscivi quasi a modulare se entrava un vicino, invece con l'EPT 3006 nulla, un abisso c'era. Io me ne ero accorto passando dal 3009 al famoso Samurai, quel baracchino chiamato Samurai, come cavolo si chiamava? Samurai, praticamente era un come un Pluto col frequenzimetro, come un Pluto però cromato, capito? E quello che ci ha fatto la stazione. Quello che? C'era Franco, che pare, quello della stazione, Franco Binato. Non mi ricordo il nome completo, se era Suzuki Samurai, comunque era una marca, cioè non era di solite marche conosciute, però era un Pluto praticamente, EPT presumo 3006. Comunque volevo dire a Luca che quel Force One già era bello, però la mancanza delle bande laterali era per me inaccettabile. Guarda, se avessi avuto le vacanze, se avessi avuto le bande laterali, forse te l'avrei pagato quel prezzo che chiedevi, o forse no, dipende. Ehi, vabbè, uno lo può comprare perché gli piace, poi se non c'è le bande laterali, che dice, intanto non ho ridato mai le bande laterali, gioco sempre Udesi, cioè alla fine, se ci pensi bene, hai una bella radio. Per le bande laterali proprio se devi passare utilizzi un'altra radio, ma uno guarda anche la bellezza, no, della radio, giustamente. No, era, caspita, adesso che l'ha fatta con l'effetto elicottero, non so se te l'ho mandato il video, l'ha migliorato parecchio. KK a Rogero. Sì, me l'avevi mandato, infatti lui stava lodando e diceva che era l'unico o quasi l'unico a averlo d'Italia, perché ne hanno venduti pochi, ma sai perché? Perché la gente diceva, caspita, sembrano 3.009, però è solo MFM, e dice inutile che avere 240 canali ed è solo FM, perché i canali alti interessano per la SSB, per i DX. Vabbè, ogni tanto qualche DX in Italia ci sta, dai, l'altro giorno ho beccato Ancona. Dice finalmente sento la Sardegna, perché loro sono verso il mare Adriatico, no? E c'hanno l'Appennino che li copre un po', vabbè, la propagazione poi fa il resto, fa il miracolo. Però dice che proprio da Sassari non sentivano persone da secoli, a quanto ho capito. Sì, stanno passando in banda laterale, anche in FM comunque. E loro mi ha detto che hanno la ruota sul canale 8. Sul canale 8 spesso in banda laterale. Il problema è che la propagazione per lì non si apre sempre, anzi ben poco. Ma è chiusa in questo periodo. Ma infatti io chiedevo ieri, ma la tempesta solare è già arrivata o deve arrivare? Dice che dovrebbe dare anche in teoria disturbi o chiusura delle frequenze radio. Ma chi ne capisce? Guarda, c'è più propagazione quando si guasta il tempo, quando comincia a rinfrescare, a venire vento, a esserci la perturbazione dal nord, allora si apre la propagazione. Ma quando c'è la bolla africana passa poca roba. Vabbè, prendiamo acqua, non c'è, basta. Mi potete dire l'ora che sono senza orologia? 7:15. Sì, cavolo, fra poche ore di cena, altro che gelato, adesso chiedo in regia, dai, riprendete. Io bisogna che voglia della compilation di ghiaccioli, mamma mia che caldo. Li ho presi, ghiaccioli gusti assortiti, 10 ghiaccioli, gusto quello che c'è. Sì, anche io, 2 pacchi. Io avrei preferito il calippo, già lo sapete, no? Calippo ti piace, gli atti. Ah, quello con gusto di carne. Marco ci mette poi il limone sopra, già lo sapevi. Cioè, il carpaccio faccio, il carpaccio di calippo. Cucci. Cioè, cos'è a balcone al compleanno? Cosa ne avevano fatto? La torta a forma. Il pane, una volta un pane, una forma di pane a forma di bicetta praticamente, enorme però, in tempi diversi erano, vedi? Si facevano partite di calcio, vabbè, chi ce la faceva a giocare a calcio? Io non ce l'avrei fatta manco da giovane. Sì, lì avevano fatto lo schiumogeno a Paulette, l'avevano preso la schiuma da barba, l'avevano riempito tutta la schiuma da barba. No, non era schiuma da barba. Cosa era? Schiuma da barba era. No, era quella schiuma spray di carnevale, quella inerte, che praticamente è acqua. Comunque, l'hanno imbienato l'ultimo, guarda. E tu ancora non c'è frequenza quando l'hanno fatto correre, che si sono regalato l'appuntamento a Sassari Vecchio e sono vestiti da fantasmi, hanno messo l'elettrone in testa, come è venuto lui al buio, sono usciti loro con le lenzuola, che sono arrivati un gurri, dice che toccava i piedi nel sedere da quanto stava correndo. A Gigotta Lubarzia. Era un servizio a castello quando c'erano ancora i telefoni con le cabine. E hanno messo il sombrello, poi ha avvisato la madre che secondo lui Casini andava a entrare e siccome c'aveva il cappello in testa, che faceva richiudere le porte, gli vedeva la faccia, ogni voce a casa andava a entrare, di nuovo, una su goi. Antonio non si è sentito oggi. No, per me. Ma stamattina già è entrato. Oh, ho chiamato la voce. Era addormentato, vero? Un pochettino, domani mattina la sveglia è presto. Davvero, a ciò che devi andare? A travagliare, buonasera a tutti. Mi stavo preparando il sughetto. Ciao. Buonasera Gianni. Mi raccomando, peperoncino, go. Qua è il gatto di bruciare a me e al vizzino la canna. Tu la mangi, no, la vizzino arrabbiata, ancora reddo. No, lo faccio sia per me che per capire per tutte e due. Quindi non lo metto. Fai bene. Certo. Fallì le farfalline che tu bizzino. Esiste la pastiglia per i bambini, piccola. Sono andato a girare il suo, capito? Possiamo vedere una cosa che non c'è. Ecco allora. Adesso è il caldo, dimmi la mente. Ma se c'è ancora caldo, viene tardi, c'è ancora caldo. E dice che domani gli altri giorni a venire sarà peggio. Domani, mamma mia, domani devo andare a Oristano. Davvero? Cosa c'è a Oristano? Non lo so. Ah, che fratiglione, ma è detto che è un cantante famoso, bravo. Ma dove eravate l'altra volta? No, Noemi no, non c'è Noemi, l'avevate la Fadì. No, l'altra volta non eravate Oristano o giù di lì? Oristano, facendo Noemi. L'altra volta ero a qualcosa, a... in gatto, come si chiama, ma... a Nuragos, più giù di Oristano, Insomma, di venire di tutta la salita, Di tanto. Meglio di me quando lavoravo alla Timica, mi giravo tutta la Sardegna. Fatto un travaglio. Lasciamo vedere. Quindi buono un attimino, mi ha passeggiato tutto. Ma dimmi un po'. Avanti, Marco, il gelato mangiato ce l'hai. Ciao Antonio, io ho preso un ghiacciolo alla Boa Marena, sì, il primo che mi è capitato. Io l'ho mangiato alla menta, alla malena, al limone, insomma tutti mi leggono in all'aranzo. Però, a dirla tutta, non mi soddisfa perché sì, il ghiaccio alla fine, preferisco il gelato, più nutriente, questa è acqua colorata e zucchero è buono. Vabbè, più nutriente, ma di mangi ingrassa burro. Invece il ghiaccio non ti fa mai ingrassare, poi non sarà a caso tuo, ma per me, per Luca, il ghiaccio lo va meglio, perché non ti fa salire la glicemia. Poi c'erano simili ghiaccioli con la stessa forma, i sorbetti, i sorbettini sono un po' più teneri, più sembra più polpa quasi di frutta, capito, che non ghiaccio. Già lo so, ricordo, cappa e gatta, vabbè, quindi anche domani c'è di parte, cercando di uscire. Sono 8. Allora non è tanto presto, pensavo più presto, penso le 4, roba così. Posso trovare Manzano? Cappa. Ma che stai funzionando, aspetta. Funziona così. Ora. Non si guasta che su coso. Nel tempo li faceva anche qua i concerti, nel campo, roba niente vi veniva. Manco Puddi che ne è più fendi. A parte che secondo me è in base a Bredi che ti buoni. Anche quando era Don Antonio e l'altro era festa a Gugu sempre. Per carità. Sì, già c'è la festa. Allora Antonio, si afferrano con. Un giorno lo fa il circolo, un giorno lo fa lì, lo fa all'oratorio femminile, ma non fate un casino però, tiene volumi bassi, la serie con la CIA. No, ma quelli sono i balli, tu vasi, i concerti no che vasiano, già menti, concerti, mettiamo il palco nel campo, le bancarelle, e che da fate lo ballottondo, cazzo, se hanno dei chipi ti devi dare i condoglianze, per carità. È un bel fiacco di culo, vai. Ehi, è da scella, no? Guardati quel video che ti ho mandato, della scritta, Antu. Ah, quell'audio, guarda se trovi quell'altro video, Antu. È buono, guardo. Hola, vai. Ma funziona ancora, già. Gianni, si è perso, Marco, si è perso. Aspetta che stavo controllando l'ordine della Coca-Cola, si è andato, aspetta. Io non mi sono perso, è entrata una mosca così fastidiosa in casa, non riesco a pigliarla, boh. Ma io sono giubilato di Sarracchetta. Ah, vedete, che chi è giù, Ma quella elettrica? Ah no, su Amazon l'ho presa. Mentre voi mi leggete, perché anche loro non la sentono l'aria quando gli arriva della racchetta. E per le zanzare, siccome c'è anche una luce, tu la metti il pulsante fisso per dare la scossa e accendi la lucetta che c'ha la... Ah, c'è lì, come te li puoi mangiare, gli zinzoli. Quello già è comodo, perché la notte a volte entra che chiude, come le finestre aperte, in casa le entrano, io non le ho da vedere, quindi mi senta. Ah, e se non metto, io metto la pastiglietta la notte, tengo tutte le finestre aperte, metto la pastiglietta, attacco, non tieni pugni una, ma se ti dimentichi a girare la pastiglietta o la racchetta, cioè di tanto la recce. Dopo accendi la luce, non va qui, spegni di nuovo che... Non le usi le pastigliette, quelle della Vape, sono buone quelle. No, io quando metto la pastiglietta non ne sento neanche una. Ma perché ci sono ancora con le pastigliette lì? A voglia, ci sono anche la Conadan tu. Ma io pensavo che non le fabbricassero più, lo sai. Avari si offende a fianco di culo. Ah, voglio salutare a Marco, salutoni Marco, buonasera. Sì, ciao. Allora io che sono povero prendo quelle di Lidl, quelle pastigliette azzurre, oppure c'è anche il liquido, però il liquido non conviene perché se ti dimentichi il fornelletto ne sprechi un bel, evapora e ne sprechi un bel. Me Gianni, sentite, la pastiglietta azzurra prende lui, me. Marco già si giovane ancora. Viagra. Te immagini il Viagra che si cosa nell'aria, si diffonde nell'aria. Ah, ma c'è compreso che piace un calippo. Ma poi il Viagra, per chi sarebbe il Viagra? Per le zanzare o per le persone? Trovi la zanzara e ti fa l'allaccio, mi. Allora, su, cercate quanto sono fastidiose la notte, mamma mia. Soprattutto se non riesci a prendere sonno, mi, se sei già nervoso che non riesci a prendere, poi senti... Ma è una pesta che ti sia sorpassendo. Oh, eppure dicono, okay, che chi dice che vanno a sangue, chi dice che vanno a sudore, comunque questi odori che maniamo, insomma. Oh, a babbo non bugnano mai, a me mi faceva freddo, manco una puntura. Infatti dipende. Invece a me mi fa dire chi la vera. Tutta magnazzona di domani, via. Pungono perché devono, sono le femmine che pungono per dare nutrimento alle uova. Io naturalmente lo uso solo a finestre tutte aperte perché ho paura che faccia male ai gatti, perché loro sono più piccoli, però la concentrazione è maggiore. Devi vedere, sei impazzito, bicicletta, dai. Ma è una mosca normale o di quelle mosche cavalline, quelle brutte e strane, tipo Tafano? No, di quelle moscovici, quelle grosse. Ah, quello che depone le uova, pucci. Quelle che hanno le zampe adesive, che c'hanno, sono palmipedi. Lo stesso se le mangia, è uno schifoso, se le prende se le mangia. Vabbè, ma loro tanto sono... Come dire, gli animali sai, leccano la terra, hanno un sistema immunitario maggiore. Se lo facciamo noi guai, salmonellosi tipo. Poi ci mettono poco via a deporre i vermi. Ah, Maria, che schifo. Una volta ero stanco, e trovo la sparicchio dopo, non ne vado perché ci devo riposare, ritorno a casa e c'erano i vermi nel piatto. Della larvettine di mosca, beh, però le uova prima che si schiudano passa un po', mi, non è così veloce, no? Non fanno le uova, fanno direttamente i vermi. No, mai visto, io sapevo che ponevano le uova. A meno che non sia proprio automatica la cosa, come le depongono si schiudono. Pucci, Antonio riprende. Scusa, ma molto di che cosa stai parlando? Che era una femmina in cucina. Salve. Oh. Sto uscendo, sì. Di cosa stavate parlando? Delle mosche che fanno i vermi. Se si cavano sulla roba lasciano i vermi sotto. E che fanno schifo, fanno. Una volta ho lasciato il piatto perché ero stanco, mi sono riposato 5 minuti, mi sono gommisato e c'era l'arma delle mosche sopra, la buccia delle mele che avevo mangiato. Animale così feo, per carità, guarda. Animale così feo. Infatti non l'ho più fatto. Una volta che mangio, lavo tutto, metto tutto a posto, da me pizzico. Perché lasciano i vermi. Comunque Marco, io ti devo contraddire perché una volta l'ho schiacciata la mosca e sono usciti i vermi. Quindi ce l'ha già dentro. Oh, non lo sapevo. Non lo sapevo, a meno che cosa c'era? Aveva i parassiti, la mosca dentro, già che. Boh. Sono quei mosconi grossi lì, che fanno un rumore grosso. Sono mosconi, non mosche, proprio mosconi. Sì, una volta chiamavo i B-52. Ancora funzionava lo scappaletto, ragazzi. Sì. Cappa. Questo è il 48. Sì, poco si senti male, ma... Ma c'è male, c'è proprio il male. È un po' cupo rimbombante. Cupo. Cupo. Forse è troppo basso. Vedete che è basso. Com'è ora? Vedo qua. No, non è chiara la radio. Per me, poi non lo so gli altri come ti sento. Non è chiara, guarda cosa è ora. Fastidio. Ecco, tu come lo sei? È un po' cupo, un po' rimbombante, un po'. Così lo sento io. Boh, ha sempre funzionato poi che fa parecchio. Non è che si è parlato troppo vicino al microfono. No, negativo. Negativo proprio. Allora abbassa il volume del microfono, intanto. Ora, aspetta. Ora, va meglio. Direi. Tu vai, non me la faccio di pulire tutto a manettone, ma tu sai che ci manca bui. Alza appena, ma poco. Guarda a vedere, ora va molto meglio. Va meglio sì, un po' più bassa la radio, però è più chiara, confermi ma. Sì, meglio, perché se esce cupo già un po' rimbombante, se alzi peggio. Alan 48, ma quale? Quello old o quelle versioni ultime? Procession Series, proprio quelle. Ah, 48, davvero. Ma tu che microfono stai usando? L'MB4. Che strano. Non è... Non c'ha gli acuti, è troppo rimbombante, è troppo grossa la voce, risulta come se stessi parlando dentro un coso, dentro un bicchiere. Ah no, mi chiama di orso, ma che suo, scherzando, ma lo so il perché, No, vai. Prova a fare un passaggio lungo, adesso ho alzato anche il volume per sentirsi molto meglio. Cappa, dai. Ora, stazionario, non ce l'ho controllato. Ma potete abbastanza regolare. Cappa, era parecchio tempo senza usarla, ho detto, ma la bruco un pochettino. Quella che l'avevo usato che se l'ha bruciato totalmente. Sì, lo so, ma adesso già va meglio, adesso va meglio, così va meglio. Non è il massimo, ma va meglio. Cappa, quanto di segnale, Marco? Antonio, non fa testo, questo è LED, è arrivato tutti in fondo scala, non fa differenza, ma sai qual è la fregatura? Che sia il 5005 che questo apparato ti segna il 9+10, tu vedi tre tacche, no, dovrebbe essere 9+10, 9+20, 9+30, invece no, ti segna il 9+10, poi se sei più forte segna direttamente 9+30, cioè ti accende le ultime due tacche e te le accende assieme, quindi se uno arriva a 9+15, 9+20 non lo sai perché è direttamente fondo scala. Comunque tu arrivi bene a casa e col 3009 dove leggo meglio sei credo 9.25, 9.30. Guarda, va bene, passa dalla pilota, la mulla. Però vedi, in città non hai la, con questi smitter, io dico LED, che poi è cristalli liquidi, non hai la differenza, la cosa delle distanze. Cioè tu, che sia sotto casa, che sia latte dolce, che sia cosa di gioco, tutti 9.30 in città. Allora uno dovrebbe abbassare l'RF gain per riuscire a vedere un po' le differenze. Però poi ti fa il segnale, ovvio, no? E comunque l'unico vero smitter degno di questo nome era quello del 140. Ah, quello del Cobra ce ne ha bene. Sì, Gianni, l'ho detto tante volte a Gianni, l'unica cosa che piango dal 140 è lo smitter, che almeno era fedele e tutto, ma poi il resto si poteva anche buttare. Vabbè. Io lo so, io a periodi mi piace, poi a periodi mi piacciono più gli apparati CB, non lo so perché. Mi sembra che non ci faccia nulla in una stazione CB o 140. Ehi, ma sai cos'è? Aspetta. Sai cos'è già? Quando iniziavi che a freddo doveva scaldare per uscire bene, poi dovevi stare a una certa distanza. Guarda, è la stessa cosa dei microfoni preamplificati. L'MB più 4, no? Se lo metti qua devi mettere il tono, che ne so, ti faccio un esempio, a 0, se lo metti sull'altro baracchino lo devi mettere a 3, se lo metti sull'altro deve essere a 5, a seconda del baracchino devi alzare o abbassare il mic gain del microfono, insomma devi stare ogni volta a regolare per ogni baracchino, siccome io li cambio spesso, mi rompo le palle e uso direttamente il mic originale della radio e come vedi esco sempre bene io. Ma l'MB più 4 non ne ha tuni. Il più 5 ce ne ha. Ma io ho il più 5 già. Ah, tu hai il più 4. E vabbè, comunque. Io ho il più 4 adesso, bella. Sì, bene, un po' effetto stanza, però va bene. Capito già, così era 140, freddo un po' così, poi certe volte mi mettevano le paranoie, ma non sta andando come dovrebbe, provo a alzare, provo a abbassare, provo a regolarmi che, e mi rompevo le palle praticamente già con 140, preferisco un baracchino normale e un mic normale, e come vedi? Sì, vabbè, poi adesso quelli che stanno facendo adesso i baracchini, anche se hanno il mic normale, escono furti. Perché tipo quegli americani hanno tutti i microfoni normali, però escono come se fossero amplificati. Però questa mia è una modulazione normale, non è amplificata. Sì, ci sono certi baracchini che sono veramente fuori, diciamo, fuori norma come emissione. Questa è una modulazione normale, magari non bassa, ecco, perché in realtà li omologati a pannelli compri, già lo sai che sono tutti bassi. Ti dicono alza la radio, alza la radio, sempre un pochino di trimmer della M glielo devi aumentare per forza, se no ti assillano, alza la radio, alza la radio, alza la radio. Comunque da me l'effetto stanza lo senti perché io sono lontano dall'apparato. Capito? Adesso come va l'effetto stanza? Beh, un po' di rimbombo lo sento io già, ma è normale, no? Se il microfono pompa, capta un po' il suono che si riflette la voce si riflette nella stanza, no? E vabbè, poi questo è modificato, non è normale. Sono ritornato alle origini, dai. Vedi questo qua, questo va bene già così. Non c'è bisogno di mettere il microfono amplificato qua. Ma l'avevi risolto il problema di ieri, che ora, che si abbassava, che era saturo, com'era? Ma era lo stesso baracchino? No, questo è il Cobra, domani che lo stesso. Vedi, questa è la radio vecchia. C'è già così dalla casa, non devo fargli nulla. Metti il microfono e moduli. Vabbè. Ma Cobra, quale Cobra? Quello che conoscevo io già. Quello che avevo io, quello vedi, aveva un design esclusivo, quello era un apparecchio da prendere, perché anche ne sono arrivati pochi di quelli là, aveva un design diverso dagli altri, e solo per quello vedi andava bene come baracchino AMFM. Però il Force One no, il Force One poi per il prezzo che aveva da nuovo, era costosissimo il Force One da nuovo, con la scusa che aveva il display colorato, me ne ha fatto assai. E poi vabbè, sai cos'è già, se dovessi prendere ogni nuovo modello che esce, o comunque quelli che piacevano a me. Quello del Galassi Nuovo che avevano fatto quei due, quello era bello, se usciva a vedere, quello mi piaceva veramente, ma adesso come adesso non lo comprerei più perché c'è poca gente. Ma prima l'avrei preso, se usciva a vedere l'avrei preso, anche se 300 euro l'avrei preso, mi piaceva a me. Ma quale alludi? Ma per caso quello autocostruito che ci ha messo analizzatore, ricevitore, lineare, tutto dentro, quello è una favola, quello si allude a quello che se l'è autocostruito, hai visto tutta la roba che ci ha messo, tutte le schede dell'hardware, era un mezzo computer praticamente, e più credo che la base fosse quel baracchino RCI, come si chiama? Il 2950 di Exo simili. Sì, ho capito cosa dice. Sì, è quello lì, Marco, quello che ti avevo fatto vedere io. Quella era una favola, se sarebbe uscito in vendita sarebbe stata una favola, una bella parità. Ecco sì, Ranger, RC 2950 di Exo, poi c'erano vari modelli, 2970, non so, però vedendo la base che lui ha messo dentro, ho trovato un po' una corrispondenza guardando quegli apparati là aperti, capito? Avere quello è un pezzo unico, quello non lo vende perché non potrebbe nemmeno quantificare il prezzo, cioè ti costerebbe più che un grosso HF, capito, moderno. Ma non è molto vecchio. Io nel 1950 ce l'avevo, poi l'avevo venduto a Padre, l'avevo venduto a lui. Cosa? Tu che l'hai avuto già, com'era come baracchino? Come qualità di FM, di banda laterale, di selettività? Sì, adesso ricordavo, non me lo ricordo bene, ma sì, usciva bene come apparato. E c'aveva la batteria per le memorie e tutte queste cose qua. Era un po' complicato da usare, però era bello. Il Ranger, sì. Era bello, ma praticamente se non è antenna non vuoi andare. Ma com'era come qualità di ricezione, non so, tipo a livello del Lincoln? Io Lincoln non l'ho mai avuto, però era buono come ricezione, era buono. E poi però mi ha stufato perché sono apparecchi troppo complicati, devi usare memoria, chi su di dato. C'aveva la batteria interna per le memorie, infatti quella lì c'era praticamente la scaduta, doveva cambiargliela per Paolo, poi non lo so se l'ha fatto, io l'ho avuto con la batteria che era finita. È finito tutto dentro il pacco, è finito di una certa persona, ha fatto tutto un pacco, non ha voluto più sapere. Sì. Meno male che mi sono lasciato la radio mia, sennò pure quelle facevano fine brutta. Vabbè, io ne ho avuto gli apparecchi, Marco, lui hanno avuto l'idea di tutti gli apparecchi che ho avuto. Guarda, a me poi me ne piacevano tanti, quando ero ragazzino, cioè sbavavo, però non potevo comprare niente, così come mi piaceva il presidente Jackson vecchio, quello con la mascherina cromata, perché c'era anche nero, è tutto nero, però con la mascherina cromata, quello dal vivo l'avevo visto, a Franco Panino di Palmadula, quello che era stato poi rovinato da... Vabbè, non... A me non mi sono mai piaciuti i president, come estetica non mi piacevano, magari erano dei belli apparati perché uscivano bene, ma come estetica non mi sono mai piaciuti. Io ne ho avuto Intec, ne ho avuto diversi, Lafayette, ho avuto anche l'MS200 della Lafayette. Sì, tutti quelli là mi sarebbero piaciuti, l'MS200, Ien Quinto, Maiorecco, adesso non mi ricordo nemmeno tutte le marche, e poi alla fine la scheda dentro sempre quella era mia, si chiamavano la buccia, è come la storia delle 6.009, le 7.009, 9.009, siamo lì, si cambiano la buccia dentro è uguale, il motore era sempre lo stesso. Lei che qui ho avuto, lo usavo col tavolo più due a palmo, e con il giambo Aristocrat. Ma qual era? Quello col bip alla Modigliani? Ti ricordi Modigliani c'aveva proprio col bip, quello che faceva tui? Sì, quello che Rosa Verde mi diceva di togliere il bip perché c'avevo un senso di superiorità, era quello l'apparato. Perché a quanto ho letto sui forum vari, credo che ce n'erano tanti di Alien Quinto, c'era tre bande, c'era cinque bande, in uno c'era solo il clarifier, nell'altro più completo c'era il clarifier e il tune, e l'unico, così ho letto e potrebbero sbagliare, l'unico che aveva quel bip era il modello 2795DX, perché gli altri inferiori non avevano quel bip, così ho letto, quindi prendila per buona. E ci avevo quello con il bip lì. Qui per fare una bappera come te. Qui faceva un suono strano. E vabbè, comunque lo trovo di volta che già andava piano del bip che c'era senso di superiorità. Allora abbiamo fatto un tasto, abbiamo fatto mettere per escluderlo, perché dalla casa non si poteva escludere. Da Luigi l'avevo fatto fare, Luigi non so se te lo ricordi, quello che faceva il DJ anche, l'avevo fatto mettere il tasto. Che cazzate che ti sbagliare? Lo tenevo perché non aveva di esclusione di bip, che ce l'aveva proprio inserito, e l'aveva fatto questo... No, mi aveva eliminato, mi pare, qualche... tipo NL filtri, dai, qualche filtro aveva messo l'esclusione del bip. Sì, ma il cavolo, cosa di superiorità, ma pa cosa? Comunque già, tu non so se hai mai visto il modello XTAL 23 canali, c'è proprio scritto XTAL 23 canali. Io non ho mai visto un baracchino che faceva un TVI folle come quello. Allora, noi eravamo in Viale Mameli. Quel baracchino aveva una modulazione tanto limpida quanto forte, però non forte e distorta. Forte come che tu ascoltassi una modulazione limpidissima e alzavi il volume col baracchino. Ma dice che noi eravamo in Viale Mameli, tutta via Nizza, scomparivano le TV e entrava nelle casse del cinema, mamma. E c'era quello del cinema, Guarino, disperato, che non ne poteva più la vita e non capiva da dove arrivasse il suo segnale. Che baracchino è? Te l'ho detto, XTAL 23, dopo ti mando la foto, era un baracchino americano, proprio americano, che era 23 canali, però ti spiego, il 23 non funzionava, cioè andava dall'1 al 22, poi il 23 non corrispondeva al nostro 23, perché il nostro 23 va sopra di 30 kHz, come detto prima, rispetto al 22, quello invece aveva, credo il 23 forse era adiacente al 22, no? Faceva 2,25, 2,35, era sfasata la canalizzazione. Aveva il delta tune, volume squelce, delta tune, basta, non aveva altro. Ma il TVI che faceva una cosa folle. Una volta addirittura ci ho aggiunto, all'epoca, sto parlando degli primi anni, metà anni 80, il B30, tutto starato. Allora la televisione diventava schermo nero all'istante, non c'era il digitale, come premi il TUN, schermo nero. Era una cosa folle, infatti poi si era guastato, però usarlo era veramente un rischio. Ma anche io l'ho già sentito nominare, Tristan, come con la TIE, Tristan. No, XTAL, si pronunciava XTAL, allora ti faccio lo spelling, X-Ray, Tango, Alfa, Lima, X-Ray, trattino, Tango, Alfa, Lima, c'era un trattino, sì. No, no, non lo conosco, io conoscevo il Tristan con la T, però quello lì non lo conosco, non l'ho mai sentito. Tecnologia proprio di chi si... per carità. Allora, quel baracchino ce l'aveva mi siamo regalato Marco Mandingo, che frequentava da, comprava da Mario M2, no? Avevo detto, guardate, io baracchini ne ho tanti, se voi vi pagate la riparazione di questo baracchino, che era di 30 euro, ve lo tenete voi. E sempre tutti vantavano che mamma, già la voce femminile, aveva questa voce bella, potente, squillante, una roba di TVI, ma una cosa proprio abnorme, che neanche con lineare faresti un danno del genere. Io voglio sapere cosa c'era dentro o cosa non c'era. Una fabbrica di spurie. E via, ciao Natalino. Buonasera Natalino. Ciao a tutti, dai. Vi ascolto. Vediamo se c'è anche Luca per un saluto a Natalino. Luca, ci sei ancora? Ciao Natalino. Ciao già. Posta. Una cosa non ti viene, non ti riesce. Come c'è parlo di giù. Avanti, chi era l'altro? Antonio, No, dicevo che se tu vai a farlo intenzionalmente non riesci a fare una cosa del genere, è una cosa, dopo cerco, vado in bagno un attimo, già sono tutto appiccicoso di ghiacciolo, che schifo. E se qua quanti metti scegli sapari? 5 watt, 5 volgarissimi watt, e aveva lo spinotto, il microfono con quello spinotto a pressione, sembrava un baracchino che non valeva lo schiaffo, no? Tipo KB23, una cosa del genere, frontalino cromato, aveva di carino lo smitter che aveva una serigrafia tipo radar, vedevi questa specie di croce, tipo mirino, una cosa del genere, ma il TVI che faceva era una cosa folle. E quindi non ci può pensare, va. Sarà tipo il tuo KB24 che avevo io a casa. Io l'ho venduto perché disturbava. Allora c'era Toria La Verde e mi ha detto che non disturbavo, ogni volta che entravo mi sentiva tutte le parti. Dai, riprendete che vado in bagno. Vai Anto, che vado a lavarmi. E dove abitava questo Torre La Verde? Senza di Vecchio? Un palazzo di fronte a me. Ah, sì. Non è morto da molti anni. Molti anni. Però lui mi aveva detto che io trovo anche 10 metri, quindi l'ho dovuto togliere da mezzo. In ora buona. Io eravamo le antenne, era una di fronte all'altra, gli ero grido, vado in basso. Kappa, e cosa? Già un grido che ne pigliava già. Cavolo, è una bomba il segnale. Il toccai c'è forte, non te la vedevi così, toccai, c'aveva il microfono precompresso. E usciva un bel forte come radio, senza bisogno di amplificato usciva una bomba. E che aveva 23 canali, vabbè c'aveva anche canali alfa, l'11 alfa ce l'aveva. Ed era un apparecchio che è stato di cappello, bello robusto, lo metteva in barca perché era di quelli distruttibili, quelli bene robusti con la gomma attorno, e era fatto bene. E poi anche il colore era bello azzurro metallizzato. Ma di timone, via. Solo che circuzionavano in me, talmente era forte. Oh, io ti devo lasciare perché è pronta la pasta asciutta. Adesso chiamo il signorino e mangiamo, ok? E l'altro dai, buon appetito. Un bacio al bambino. Anch'io sto andando che devo andare a portare giù a Taiso, dai. Saluto tutti cordialmente e buon continuo con questo. Dai, ciao a tutti. Ciao Luca, Natalino, a te Antonio e Marco. Ciao a tutti. Beh, avete già chiuso, ammazza voi.